Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un anno si può trasformare in affido ai servizi sociali, ma vi sembra, a parte l'umiliazione che consente a Don Mazzi di dire Berlusconi venga qui a pulire i cessi, o quell'altro che dice venga qui a coi ragazzi della palestra a Scampia, così gli va giù la pancia, ma non ritenete che sia un esporsi al ridicolo pensare di fronte alla comunità internazionale per un soggetto della mia età, che è stato il cittadino italiano che per più tempo ha avuto responsabilità di governo? Sono i servizi sociali, magari lo mandano a fare assistenza in una casa per anziani. Ve immaginate il dramma in quella casa di riposo con i vecchietti che mangiano la pera cotta? Si apre la porta e entra Berlusconi. Uè, anzianelli, come va? Mamma mia, che mortorio! Ma cosa fate qui? Ma perché non guardiamo tutti insieme il TG4? Forse è proprio il caso di fare un punto su questa vicenda. Ma non perché abbia interesse a prendere parte, a difendere, a offendere, a aggiungere anche la mia voce al coro delle illazioni, degli scherzi, dei lazzi sul presidente del Consiglio che va a pulire il sedere ai vecchietti, va a pulire i gabinetti, che va in giro con la tuta a pulire i giardinetti. Questo è, diciamo, una sorta di fanta immaginario satirico che ha la sua ragione d'essere, assolutamente, è giusto che ci sia, comunque e dovunque. Ne voglio, da parte mia, sostenere il fatto che è indecoroso che un ex presidente del Consiglio di fronte all'occhio del mondo faccia questo tipo di funzione. No, mi voglio fermare proprio al servizio, a quello che significa l'affidamento ai servizi sociali. Però guardate, noi siamo un paese molto strano, improvvisamente siamo tutti bravi a ridere, a ridicolizzare, a immaginare la persona più ricca del fanta universo, a fare dei lavori umili. Abbiamo una sorta di personale risentimento, ma diciamolo oggi che è Verdi Santo, perché ancora crede al senso di attesa e mortificazione di questa giornata. Sì, a tutti ci dà gusto vedere una persona potente, una persona ricca, una persona invidiata, pieno di donne, di soldi, di lussi, di potere, fare qualcosa di umiliante. Ognuno di noi augura al vicino di casa che ha semplicemente la macchina un centimetro più lunga della nostra, o lo zerbino un pochino più carino di quello che abbiamo noi, unto e trasandato, di dire lo vorrei vedere io a pulire i cessi e via dicendo. Ricordate, voglio ricordarvi che questo istituto interessa quello che si può dire un esercito di persone. Soltanto al 31 marzo 2014 11.646 persone, che non fanno assolutamente notizia, sono state sottoposte a questa misura alternativa al carcere. E guardate che è una misura che rispetto agli anni precedenti è aumentata in maniera esponenziale. Ora che i giornali abbiano riempito pagine con interviste a tutte le persone che gestiscono la struttura di Cesano Boscone, la Sacra Famiglia, lo andrà Berlusconi, come l'accoglierete, come cambierà la vita, i vecchietti si lucidano la dentiera e gli altri fanno in modo che i gabinetti siano pulitissimi perché nessuno debba immaginare che venga sottoposto a una misura vicina alla tortura un essere umano. Guardate che l'affidamento ai servizi sociali non è una forma di tortura, non è una maniera per mortificare, umiliare le persone, non è che di queste 11.000 e passa persone che sono quintuplicate rispetto agli anni precedenti, qualcuno pensa che le manda a fare qualcosa di umiliante. No, perché questa è una misura che in realtà è dimostrato che c'è una sorta di recupero alla vita etica, alla vita normale, alla vita di cittadini a tutti gli effetti, molto più efficace rispetto che ogni altra forma di detenzione o di pena. Quindi ha un suo senso, ha una sua dignità, non è una cosa che si fa per umiliare, è una cosa che si fa per far capire a persone che hanno smarrito il metro di giudizio su quella che è la reale equazione dell'umanità. Quindi immagino che tutto il mondo sia fatto di sopraffazione, di più forte che si mangia il più debole, oppure di una illimitata capacità di acquisto e di potere. Non immagino ci siano persone che hanno bisogno ogni giorno miseramente di qualcuno che le imbocchi, di qualcuno che le aiuti, di qualcuno che tenga loro la mano. Questo è il senso dei servizi sociali, e per questo questa mattina dedicherò la puntata a chiarire il punto doloroso ma importante su questa importante istituzione. A Berlu Stato hanno deciso che daranno il lavoro socialmente utile. Affidato ai servizi sociali. Sì. Affidato ai servizi sociali. Allora, la prima proposta era dagli anziani disabili. Sì. E poi si è detto, ma sono anche io anziano, anche io disabile, forse faccio volontariato me stesso, faccio prima. Poi c'è stato anche un po' una riflessione perché ci si chiedeva, ma tu affideresti tuo nonno a Berlu? Sai, perché poi magari ti ritrovi che gira per casa un anziano che urla contro i giudici e che magari canta una canzone napoletana ed è truccato come la Pampanini. Sì, oppure? E allora che cosa è successo? Che la proposta che ha fatto lui è questa. È bello che improvvisamente, nel senso generale, lecito, giustificabile, quello che volete, di disprezzo, di antagonismo politico, che giustamente una persona che si è molto esposta in politica, molto esposta come persona, che ha dato di sé un'immagine sicuramente che almeno in alcune sue espressioni non è tra le più esemplari, possa starci. Ma mi meraviglio che persone che dovrebbero avere una loro coscienza sociale, nel pacco della denigrazione, della satira, della lecita opposizione, mettano anche il servizio, l'aspetto sociale, l'anziano, il luogo dove sta l'anziano, le persone che con l'anziano si occupano. Dimentichiamo un attimo che esista Berlusconi, che Berlusconi sia un problema che tocca a tutti noi. Dimentichiamo che sia un nostro problema il fatto della maniera in cui sconterà la sua pena, che gli è stata assegnata da un tribunale di cui riconosciamo la piena e totale autorità. Ma immaginiamo che oggi una serie di persone, anzi migliaia di persone, comunque hanno questo piccolo risarcimento rispetto alla loro situazione individuale, di qualcuno che si occupi di loro, delle persone che si impegnano in qualcosa che per loro è un cammino di gratificazione e di riscossa di una dignità sociale, non si sentono comunque messe nel grande mucchio delle prese per il culo. Vincenzo Petralla, buongiorno. Buongiorno. Vincenzo Petralla è dirigente penitenziario della Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, quindi è una persona che si occupa di quello di cui oggi tutti ridiamo, tutti sbeffeggiamo, tutti ironizziamo. Perché? Perché il protagonista è un personaggio che ci sta anche che abbia questo tipo di attenzione. Perché? Perché come tutti i personaggi pubblici si prende il bene e il male dalle persone a cui si espone. Ma in realtà di cosa parliamo noi? E è giusto secondo lei la necessaria presa di chiarimento che io ritengo di fare questa mattina? Ma io devo ringraziarla per l'introduzione che ha fatto, perché a parte la competenza con cui ha espresso le notizie e i dati, ha reso giustizia appunto a quegli 11.646 soggetti, persone che sono in esecuzione di pena in affidamento in prova al 31 marzo. A questi aggiungerei gli altri 20.000 che sotto altre forme alternative alla detenzione erano in esecuzione al 31 marzo. E in più aggiungerei gli operatori degli uffici di esecuzione penale esterna, sono poco più di 1.000 e si occupano di queste 30.000 persone in giro per le campagne, per le zone industriali, per i quartieri, per le zone malfamate dell'Italia. Sa, quindi, dottor Petralla, perché mi sento in dovere, anzitutto lei, come vedo, ha amplificato in gran lunga quella che era la mia percezione del problema, perché mi dispiace che passi l'idea che anche fra le brave persone, fra le persone che hanno una sensibilità, che in realtà questa cosa si tratti di una sorta di gogna che queste migliaia, decine di migliaia di persone a cui viene data una misura, diciamo, alternativa al carcere, in realtà siano come torturate, mandate a fare qualcosa di vergognoso, ignominioso, quasi per sbeffeggiarle. Può valere magari per un personaggio molto noto che venga intesa comunque così da una malformata e malinformata informazione, però forse è il caso di fare il punto di cosa si tratti, qual è il senso profondo? Certo, intanto c'è da dire che non si tratta di affidamento ai servizi sociali, come comunemente è stato detto in questo periodo, ma al affidamento in prova al servizio sociale. La distinzione non è da poco, perché non si tratta di un affidamento ad un qualsiasi servizio socio-assistenziale, ma di affidamento che comporta una prova che dura la durata della pena ad un ufficio che è un ufficio dell'amministrazione penitenziaria che esegue pene. Quindi vengono anche controllati che sia reale, non fittizia, quindi simbolica. E certamente c'è una forma di controllo, una forma di aiuto, e tutto ciò è commisurato alle caratteristiche della persona che si trova in esecuzione di pena, si trova in affidamento in prova. Lo dice la stessa parola, prova. La prova decorre da quando inizia il verbo, viene sottoscritto il verbale di affidamento, fino al termine della pena. E durante questo periodo ci sono degli operatori, dei professionisti di servizio sociale che provvedono a svolgere attività di controllo e di aiuto laddove necessario. È vero controllo che diciamo, le possibilità di recidiva di reato sono molto inferiori in questo tipo di istituto rispetto ad altri? Certamente, noi abbiamo dei risultati certamente rilevanti. La recidiva delle persone in affidamento in prova al servizio sociale è circa un quinto inferiore a quella delle persone che sono in detenzione. Naturalmente adesso la spiegazione sarebbe lunga e tecnica, però abbiamo dei tassi di recidiva intorno al 20%, anche inferiore, quando il tasso di recidiva delle persone che espiano la pena in detenzione è intorno all'80%. No, questo lo dico per tutti quelli che rumoreggiano in galera, deve andare in galera, deve stare in galera, ma chiunque sia, anche il peggior delinquente, è giusto che sconti la sua pena, però con una possibilità di riscatto rispetto a quelle che sono state i suoi precedenti. Sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Spenga la radio. Sì, salve, buongiorno. No, io gli avevo detto alla centralinista che sono un agente di polizia penitenziaria e stiamo andando proprio in giro a controllare questi soggetti. Cioè, volevo dire che effettivamente non è una tortura, questi sono stracontrollati, nel senso che ci sono degli orari da rispettare, ci sono. E molte volte questi qua, quando non fanno quello che devono fare, la prova che hanno fatto, cioè, non gli viene neanche accettata, cioè gli viene la persona come persona. Quindi non può essere fatto pro forma, tanto per dire faccio qualcosa, come una volta era il servizio civile, che la gente andava lì, si faceva una passeggiatina in un ufficio e aveva risolto il problema. Questa è una cosa seria, cioè voi controllate. No, infatti è una cosa serissima, noi andiamo in giro a trovarli. Nei cantieri con le assistenti sociali, cioè noi andiamo a controllare effettivamente sempre nell'orario che possiamo andare, perché poi ci sono anche le forze dell'ordine che li controllano. Ecco, se per la sua esperienza come viene presa, diciamo, dal soggetto che appunto ha questo tipo di provvedimento? Il soggetto viene presa bene, perché effettivamente ci sono delle regole, lui deve rispettare delle regole che magari fino a quel momento non ha mai rispettato, rispettare gli orari quando viene chiamato a fare il colloquio con l'assistente sociale, c'è l'orario, c'è effettivamente è una cosa positiva, e questo che io non, perché la gente effettivamente li vede fuori, ecco, sono liberi, sono adesso non c'è più galera, non c'è più. Ma non è affatto così, non è affatto così. Quindi è una misura comunque in parte restrittiva della propria libertà personale, non è che una passeggiata, vai lì, racconti due barzellette e torni a casa. Sei fatto bene, e spero che anche a questo punto, si tratta dell'ex presidente del Consiglio, un personaggio noto, sia fatto secondo i canoni, secondo le regole, è comunque una forma alternativa al carcere, quindi una forma comunque di pena, sta scontando una pena. Non è che fa una passeggiata, né, come viene pensato, è una forma di volontaria e sadica tortura, una persona viene messa a fare delle operazioni umilianti. Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando, stiamo cercando per quanto possibile di fare un punto di esattezza, di informazione, per chi non lo sappia, su quello che è l'affidamento in servizio temporaneo appunto ai servizi sociali, quello che significa, quello che comporta, qual è il senso profondo di questo tipo di istituto, quali sono i risultati, per far capire che non si tratta di un gioco, non si tratta di una passeggiata, una barzelletta, non è una gogna nel caso di un noto personaggio, né nemmeno qualcosa che viene dato in via di privilegio alle persone a cui si vuole evitare il carcere, è tutt'altra cosa. Ne parliamo con Vincenzo Petralla, che è dirigente penitenziario della Direzione Generale all'Esecuzione Penale Esterna. Allora riprendiamo il punto, dottor Petralla, vediamo di far capire come si articola questo servizio, perché abbiamo visto nel caso più noto e più eclatante celebrato dalle cronache è l'affido a un centro che si occupa di anziani, ma in realtà mi sembra che il ventaglio sia più largo e più vasto. Certamente, anche nel caso che, di cui si discute in questi giorni, non si tratta solo di un'attività presso un centro per anziani, ma come il Tribunale di Sorveglianza ha certamente disposto, non conosco gli atti, naturalmente non posso entrare nel merito, ma di norma un reo che viene affidato in prova al servizio sociale è sottoposto a delle prescrizioni che comportano degli obblighi a non fare e degli obblighi a fare qualcosa. Infatti ieri Berlusconi, quando nella sua apparizione pubblica, quando un giornalista l'ha mandato che ne pensa della magistratura, ha fatto il segno che si cuciva la bocca, perché farà parte, diciamo, degli oneri del suo Stato e di non poter esprimere giudizi sulla magistratura probabilmente. Da quello che abbiamo letto sui giornali certamente, ma di norma ci sono dei divieti a spostarsi, dei limiti alla libertà di movimento, perché voglio ricordare a tutti noi che la pena, anche quella detentiva, è essenzialmente limitazione della libertà di movimento, non certo della libertà di pensiero, e quindi per l'affidato c'è una limitazione nella libertà di movimento nel territorio, il divieto quindi di spostarsi, deve rispettare certi orari e poi l'obbligo di fare alcune cose. In genere si tratta di attività lavorative, risocializzanti, istruttive, studiare, andare a scuola, laurearsi e così via. A queste si aggiunge un'attività che è obbligatoria di riparazione del danno, ed è quella appunto di cui si parla presso, in questo caso, presso una struttura per anziani, ma non si tratta di una forma di attività fatta per umiliare la persona in esecuzione, perché ha un valore rieducativo, come la nostra Costituzione dice, quindi si tratta di un'attività che ripara il danno che la condotta contraria alla legge ha causato alla società. Quindi c'è sempre, diciamo, una misura mirata rispetto a quello che era il reato, quello che aveva fatto la persona. In realtà è così, la norma prevede che ci sia il risarcimento della vittima, laddove la vittima non è individuabile perché non è una persona fisica, c'è un'attività riparativa da svolgere presso associazioni, privato sociale, cooperative, enti pubblici e così via, in modo da restituire alla società un minimo del danno che le è stato causato. È stato causato. In questo modo la pena diventa rieducativa, ma diventa anche utile per la società, perché il soggetto in esecuzione penale esterna non sta solo, diciamo, chiuso in una cella e vive alle spalle della società, ma restituisce con un'attività qualcosa che alla società ha tolto con la sua azione. Ma mi sembra, ai tempi di Tangentopoli, Sergio Cusani fu uno che fece molto di questa cosa qua, mi pare, se ne lesse sui giornali. Sì, e poi Ne fece proprio una ragione poi della sua vita da lì in poi. Assolutamente sì, ha continuato poi a impegnarsi in questo settore lì in Lombardia, ma ce ne sono stati altri. Voglio dire che l'Italia, se vogliamo, è arrivato un po' più tardi rispetto ad altri paesi. Abbiamo approvato la messa alla prova e finalmente l'Italia si è dotata di un nuovo strumento che è una sanzione diversa dal carcere. Ecco, sentiamo un attimo Carmelo, che riassume invece un punto di vista abbastanza generalizzato che io cercavo di rettificare questa mattina. Carmelo, buongiorno. Buongiorno. No, mi sembra che si stia travisando il problema. Ma il problema non è che le pene alternative non vanno bene. Qui è il problema come sono state applicate al soggetto che indubbiamente uomo politico, uomo che è stato diciamo in tutto il mondo. Ma qui stiamo parlando di una pena di 4 ore alla settimana, no? Da fare presso un centro. Poi per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, è libero di andare a Roma e svolgere tutte le attività che vuole. E di conseguenza qual è tutta questa restrizione di cui stiamo parlando? No, aspetti, solo per far capire, perché dobbiamo capire. Dottor Vincenzo Petrale. No, mi potrei raccontare una mia esperienza personale vissuta 20 anni fa, per degli assegni da 100.000 lire o da 200.000 lire, saranno state 3 o 4, sì, dove io ho subito un processo penale, perché un avvocato, invece di raccoglierle tutti in un unico processo, sì, me ne ha fatti fare 3, mi hanno dato una pena di reclusione tramutata in libertà controllata, dove io per 3 mesi tutte le sere dovevo andare a firmare dentro la caserma della polizia e non mi potevo muovere. Ho dovuto avere dal giudice di sorveglianza un ulteriore, diciamo, permesso, perché io dovevo andare a lavorare, svolgevo un lavoro. Quanti anni aveva? Quanti anni aveva lei al tempo di questo? Io avevo ne ho 66, 50, ecco, dai. Sì, qua parla di una persona che ha 30 anni più di lei. Sentiamo intanto il dottor Petralla su questa impressione di squilibrio rispetto alla possibilità che poteva essere applicata, senza entrare nel caso Berlusconi, ma è molto diversa, diciamo, questo tipo di istituto applicato a un comune sconosciuto cittadino? E questo non si può dire, perché la norma prevede che l'applicazione venga individualizzata alla situazione della persona che chiede la misura. Quindi poi il Tribunale di Sorveglianza, che in relazione alle necessità, alle esigenze e alle caratteristiche del soggetto, articola le prescrizioni. Sì, quello che dovrebbe essere, quello che non dovrebbe passare, dire, è il senso di vendetta generale, che no, vale per Berlusconi o per qualunque detenuto. Esattamente. Credo però che ci siano delle altre limitazioni. Ripeto, rispetto alla questione specifica non posso esprimermi, perché sarebbe oltretutto non corretto. No, ma comunque è una cosa palese, perché è scritto nei giornali. Ci sono delle limitazioni, perché può, da quello che abbiamo letto, non può uscire dalla Lombardia, può andare a Roma soltanto in alcuni giorni. Che fa parte, ci comunque sono degli altri obblighi e degli altri divieti. Ora, mi sembra comunque, dottor Petralla, siamo riusciti, per quanto possibile, quanto il tempo ce l'ha permesso, a dare un'idea di quello che si tratta di questo servizio, e questo, diciamo, è stato il mio contributo a una riflessione che merita proprio il Venerdì Santo. Auguri, buona Pasqua a tutti.